Ciumaghella, ciumaghella de Trastevere, sei l'ottava meraviglia de Roma mia. Se un pittore te volesse pitturare, non saprebbe da che parte incominciare. Ciumaghella, ciumaghella de Trastevere, che miracolo che ha fatto mamma tua, ha creato un prosultra d'armonia. Ciumaghella, ciumaghella de Roma mia, sei una rosa, sei un bicciù, una sciccheria. Ciumaghella, tu sei nata ben canta. Ha fatto mamma tua, ciumaghella, ciumaghella de Roma mia, se un pittore te volesse pitturare, butta tutti i pennelli